Europa 24. Ben ritrovati da Valeria De Rosa. Ultimo appuntamento in Europa 24 con il nostro viaggio dedicato alla crisi greca. Più di una volta è stata ventilata la possibilità di un ritorno alla dracma. In queste ultime settimane il progetto è stato ripreso dall'ala più estremista di Syriza, il partito del premier Tsipras. Una strada che da più di un economista è vista di buon grado. Ad Atene abbiamo incontrato Peter Michelson, docente di economia all'Università di Sydney. If things remain as they are, ceteris paribus, as they say in economics, nothing will ever change. What's going to happen if they go to the drachma? The economy will collapse for a while. Se le cose resteranno come sono, nulla cambierà. Con il ritorno alla dracma all'inizio sarà terribile, ma dopo la Grecia potrà decidere della propria politica fiscale, potrà esportare di più, vendere molto meglio il proprio principale prodotto, ovvero il turismo, il governo percepirà più tasse, l'occupazione risalirà. Non la pensa allo stesso modo il professor Giuseppe Di Taranto, ordinario di storia economica alla LUIS, più per motivi però legati ai trattati. È da tempo che ormai ci sono sempre piani A e piani B quando qualche paese dell'Eurozona è in crisi, ma non dimentichiamo, se vogliamo stare alle regole, che questo non è previsto dai trattati europei. E anche qui mi lasci sottolineare una incongruenza. L'articolo 50 del Trattato di Lisbona prevede che un paese possa volontariamente uscire dall'Unione Monetaria Europea, però attenzione, uscendo prima dall'Unione Europea, quindi abbandonando completamente sia l'Unione Europea sia l'Unione Monetaria. Forse c'è da chiedersi come mai tre paesi così importanti come Danimarca, Svezia e Inghilterra sono nell'Unione Europea ma non sono nell'Unione Monetaria. Sulla stessa linea il direttore della Lewis School of European Political Economy, Marcello Messori. La possibilità di un ritorno alla dracma, l'unico possibile vantaggio ipotizzabile per la Grecia sarebbe quello di una forte svalutazione che consenta un recupero di competitività in termini di prezzi internazionali a questa economia. Dobbiamo però sottolineare subito che la capacità, il potenziale di esportazione dell'economia greca è molto limitato e che quindi questa presunto vantaggio sarebbe estremamente modesto a fronte di svantaggi strutturali drammatici, un impoverimento della popolazione, una difficoltà a presentarsi sul mercato avendo fatto bancarotta sia sui debiti pubblici che presumibilmente sui debiti privati denominati in euro e come dire una estremo disordine nel funzionamento dell'economia. Se ci fosse un'uscita non organizzata della Grecia con un ritorno unilaterale alla dracma, subirebbero conseguenze gravi anche gli stati membri dell'Unione Economica e Monetaria Europea. Quest'unione monetaria implica che nessun paese ne esca. Se diventa possibile l'uscita di quei paesi che hanno difficoltà economico-finanziarie, questo significa che l'unione monetaria si trasforma quasi in un sistema di cambi fissi e noi abbiamo un'esperienza dagli anni 70 ad oggi del fatto che i sistemi di cambi fissi sono estremamente vulnerabili alle spinte speculative dei mercati finanziari. Quindi anche le conseguenze per l'Europa sarebbero estremamente gravi. Ed è tutto per questo appuntamento con Europa 24. Un saluto da Valeria De Rosa. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.